serve ad alimentare la macchina della guerra, quindi i caccia, i carri armati, le navi da guerra e ovviamente c'è tutta una rete, diciamo, di oleodotti petroliere che attraversa il mondo e anche il nostro territorio, insomma, per alimentare queste guerre. Nel tuo articolo riporti anche una stima di quanti barili di petrolio, insomma, sono arrivati a Israele da novembre di 2 anni fa ad oggi. Esatto, si tratta di un report di Oil Change e l'ultimo report, quindi è di novembre 2025, stima che dal novembre 2023 fino all'ottobre 2025 sono partiti almeno 18 milioni di tonnellate di greggio verso Israele da 12 paesi in tutto il mondo e 3,3 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati come appunto l'avio carburante. E ovviamente questo passando per lo più tramite petroliere, quindi via nave, sono molti di questi sono passati anche dall'Italia, quindi c'è una delle rotte che, diciamo, sono state analizzate da questo report è quella che parte dal Brasile fino alla raffineria di Sarroch a Cagliari e poi vengono appunto da qui raffinate e poi mandate a Israele. Poi altro punto nevralgico, diciamo, italiano perlomeno di smistamento del petrolio è Taranto, la raffineria di Taranto. Infatti negli ultimi mesi a settembre, ottobre, novembre sono stati vari presidi, no, davanti alla raffineria di Taranto per cercare di bloccare questi carichi. Di fatto si trattava di petroliere noleggiate dalla Shell, che è una dei fornitori principali di aviocarburante appunto verso Israele, e lo prendeva, diciamo, dalla raffineria Eni, che a sua volta, no, sono collegati tramite oleodotto al Texas d'Italia, che praticamente è la Basilicata, quindi la Val d'Agri, la Tempa Rossa. Ovviamente non c'è solo l'Italia, ci sono ovviamente anche gli Stati Uniti e altri, esatto, paesi, come dicevi, però nel tuo pezzo tu ipotizzi che, al pari dell'invio di armi, anche l'invio di petrolio possa violare la Convenzione ONU contro il genocidio. Esatto, si tratta, ecco, come dicevi tu, moltissimo petrolio e soprattutto aviocarburante, quindi quello proprio specifico per i jet di caccia è stato spedito dagli Stati Uniti verso, che sono i maggiori rifornitori proprio di aviocarburante di Israele. Come appunto sottolinea il diritto internazionale, fondamentalmente le imprese, soprattutto se statali, quindi anche Eni appunto, ma anche tutte le altre imprese, anche private, non possono sottrarsi alle proprie responsabilità, quindi la fornitura anche di carburante viola l'articolo della Convenzione sul genocidio, che impone agli stati di impegnarsi a prevenire, appunto, il genocidio. Quindi anche c'è stato proprio una dichiarazione nel settembre del 2025 della Commissione Internazionale delle Nazioni Unite, che sottolinea che invita gli stati membri a cessare il trasferimento di armi, di attrezzature materiali, ma anche il carburante per jet greggio, che può essere raffinato e poi diventare appunto aviocarburante. Insomma, è fondamentale, no, anche una sanzione e embargo a tutti questi prodotti petroliferi, cosa che attualmente non avviene. L'altro canale di rifornimento sono gli oleodotti che passano che transitano dalla Turchia, dall'Azerbaigian, passando per la Turchia fino a Israele. Quindi diciamo che la complicità è molto vasta. Proprio in questi giorni sono stati annunciati lavori per ampliare, ripristinare il pontile di attracco dell'oleodotto NATO alla Spezia. Quindi ecco, anche l'Italia appunto è attraversata da oleodotti NATO che portano proprio aviocarburante. Le navi attraccano, i petroliere attraccano alla Spezia e da qui appunto partono tramite oleodotto e vanno a rifornire tutte le varie basi militari in Italia. E proprio attualmente, con la fase appunto del riarmo, non è soltanto riarmo in termini militari, ma è proprio anche in termini energetici, no? E quindi si stanno ripristinando e si stanno ampliando questo grande terminal di attracco delle petroliere, per poi alimentare l'oleodotto NATO, che ricordo è dagli anni 60 che esiste, che attraversa l'Italia, però nei tempi di guerra, diciamo, viene pompato particolarmente, ecco.